ตัว Thank you.

过。 哦。 一分钱钱。Thank you.

more.

Allora siamo di pensare di tutto ciò che è la città di tutto il mondo, la città di tutto il mondo, la città di tutto il mondo, I would have thought so, as you put it.